A bordo campo di Dario Ricci. Europei di basket in carrozzina, lo sport come non l'avete mai visto. Eh sì, quello che avete sentito è lo spot che introduce i campionati europei juniores Under 22 di basket in carrozzina. Protagonisti, un grande campione del basket italiano, Gianmarco Pozzecco, un volto e una voce nota, quella di DJ Francesco, che avete sentito proprio in chiusura dello spot, e poi il capitano di questa squadra del tutto particolare, Lorenzo Molteni, che nello spot schiaccia in modo spettacolare e incredibile, saltando fino al ferro e portando con sé anche la sua carrozzina, la sua compagna di viaggio e di gioco. Beh, Lorenzo Molteni è il capitano di questa squadra ed è il nostro primo ospite, perché oggi parliamo di questi europei che si stanno svolgendo tra Seveso e Cantù e parliamo soprattutto di basket in carrozzina, per capire quanto questo sport sia diffuso, per capire quanto sia importante nel panorama degli sport per dei diversamente abili. Beh, Lorenzo, complimenti per la schiacciata, Grazie. Ho visto veramente un'azione spettacolare, così come com'è spettacolare il basket in carrozzina. Tu come sei arrivato a questo sport? Il basket in carrozzina l'ho conosciuto grazie a un giocatore della Brilliant 84 che appunto mi ha visto e chiedendomi se volevo giocare appunto a basket in carrozzina mi ha aperto un nuovo mondo, il mondo di Alfredo Marsoni. Eh sì, perché la Brilliant 84 è una delle squadre al vertice del movimento ed è anche la società che organizza questi europei Under 22. Obiettivo degli azzurri, Lorenzo, è quello di vincere una partita, perché finora squadra molto giovane, tanto impegno, questa volta cerchiamo anche i risultati. Sicuro, sicuramente di sì. Ecco, dal punto di vista delle avversarie, che europeo è quello che si sta svolgendo? Lo ricordiamo, le finali poi il 29 luglio sempre a Seveso e Cantù. Sì, è un europeo molto combattuto, in quanto ci sono squadre molto competitive, anche noi cerchiamo di metterci il massimo per vincere e fare il nostro. Ah beh, quello sicuramente, ricordiamo le partecipanti: Italia, Francia, Germania, Spagna, Gran Bretagna, Svezia, Belgio e Turchia, in un panorama internazionale che ha visto la nazionale italiana conquistare un ottimo quarto posto ai recentissimi mondiali di Birmingham vinti dall'Australia. Beh, parlavamo di Brilliant 84 come squadra di vertice del movimento italiano, e allora, altro ospite, Alfredo Marsoni, il presidente della società Brilliant 84, benvenuto a bordo campo, presidente. Grazie, buongiorno a tutti. Presidente, domanda d'obbligo: come nasce il vostro impegno in uno sport, in una disciplina tanto particolare? Ma è uno sport, cioè una disciplina che ormai ha i suoi anni, ormai siamo ai 26 anni di attività. È cominciata così, forse per gioco, un po' questa cosa, sai, con gli entusiasmi, non ci pensi un po' troppo, vedi una cosa, ti piace, prendi parti e vai, e da lì poi dopo chiaramente bisogna continuare, bisogna crederci, ti appassioni e siamo arrivati appunto a questo, adesso a questo punto, a questo livello. Ecco, le chiedo, presidente, vogliamo dare qualche ordine di grandezza del movimento in Italia, perché il basket in carrozzina è una delle discipline più praticate per quanto riguarda gli sport praticati dai diversamente abili, no? Sì, onestamente il basket in carrozzina chiaramente è lo sport che attira di più, forse anche perché è quello più giocato, perché chiaramente essendo strutturati in diversi campionati in Italia, tengo a precisare, abbiamo il campionato di A1, abbiamo il campionato di A2, poi abbiamo il campionato di Serie B e poi abbiamo questo famoso campionato di mini basket, no? Che è un po' un catino che raccoglie un po' tutti i neofiti del basket in carrozzina. E quindi questo è, siamo più o meno sono 10-20, siamo intorno alle 40 squadre che partecipano appunto a tutti questi campionati di basket in carrozzina. Come dicevo, è uno sport chiaramente interessante perché per tutto l'anno, come quando comincia il campionato, a partire da metà ottobre fino a giugno dell'anno successivo, chiaramente abbiamo partite tutte le domeniche e quindi c'è veramente interesse attorno a questo sport. E poi uno sport veramente, quello che è bello è lo sport di gruppo, quindi che dà voglia di vivere, dà voglia di fare, dà voglia di fare gruppo, dà voglia di trovare le proprie autonomie, di trovare voglia veramente di fare sport. Ecco, insomma, dicevamo, sport importante in continua crescita anche a livello internazionale. E allora chiamo in causa Marco Bernia, il coach della nostra nazionale Under 22. Beh, coach, europei che sono appuntamento importante, ma l'Italia quanto pesa a livello internazionale? Lo ricordavamo, il quarto posto recentissimo ai mondiali, qualche delusione recente a livello olimpico, insomma, ce la giochiamo sì o no? Ma per quanto riguarda la nazionale maggiore, diciamo che ha avuto buoni risultati con l'europeo l'anno scorso. Quest'anno un quarto posto, mai arrivati prima nella storia del basket nazionale italiano, e diciamo che per quanto riguarda loro siamo soddisfatissimi. Adesso tocca a noi a fare dei buoni risultati e convincere, vincendo qualche partita, convincere questi ragazzi che sono il vero futuro della nostra Italia e del movimento. Tra l'altro, coach, lei è da 20 anni che è protagonista nel mondo del basket in carrozzina. Come è cambiato questo sport e soprattutto anche l'attenzione che c'è rispetto allo sport per i diversamente abili, soprattutto in Italia? Ma diciamo che da 20 anni a questa parte abbiamo avuto notevoli miglioramenti a livello di gioco, di carrozzino, di strutture, l'atleta in se stesso che sta diventando diciamo tra virgolette professionista. Una volta era un dopo lavoro, un dopo scuola, mentre adesso è diventata una cosa, almeno da parte nostra, vogliamo fare una cosa molto seria, impegnativa. Scuola la base di tutto per quanto riguarda i giovani, ma dopo di tutto deve essere un grande impegno e una grande soddisfazione da parte di tutti. Siamo arrivati a un gioco molto veloce, molto atletico, fisico, e questo andrà sempre a migliorare grazie alle varie esperienze internazionali che apportano anche nel campionato italiano. Ecco, ci aiuti a capire anche per i profani di questa disciplina quali sono gli adattamenti rispetto al basket che tutti conosciamo? Ma l'adattamento o differenza di gioco, diciamo che sei seduto su una carrozzina e questo comporta ai vari movimenti di spazio nel basket giocato, cioè giocando in piedi ti puoi calcolare uno spazio molto più maggiore quando giochi con una carrozzina. E dopo hai diversamente situazioni di disabilità e ti comporta a differenze di gioco o differenze di movimento rispetto a un normo dotato. Ecco, è importante anche spiegare, coach, questo aspetto, no? Che il profano pensa che la grande difficoltà del basket in carrozzina sia centrare il canestro, e invece basta vedere una partita, auspicabilmente dal vivo, se invece non è possibile, in TV, e ci si rende conto di quanto il livello tecnico sia elevato. Invece la cosa più difficile, anche dal punto di vista tecnico, è destreggiarsi con lo strumento principale che è la carrozzina e trasformarlo in uno strumento vincente nel gioco, vero? Sì, come dicevo prima, a differenza di tanti anni fa che la carrozzina era tra virgolette un trattore, perché erano carrozzine, non erano studiate con particolari leghe, materiali che ci sono adesso, se vediamo in titanio, alluminio, piuttosto che il ragazzo adesso è molto più veloce, la carrozzina è diventata un tutt'uno col giocatore, praticamente sono diventati molto abili a fare questi movimenti, cambi di direzioni. Fanno di tutto, cioè abbiamo visto lo spot che ha dato la Brigantea, questa idea che lo sport non ha limiti. Ecco, noi vogliamo arrivare a far capire che questo sport non è il classico disabile, ma praticamente veramente stiamo diventando tutti degli atleti professionisti. Questo deve capire la gente, che è il futuro del movimento del basket in carrozzina. Tornerei per qualche istante al capitano Lorenzo Molteni. Beh, capitano, avete anche un ruolo impegnativo sul campo, perché chiaramente le avversarie sono di prim'ordine, ma anche fuori, no? Quello un po' di cambiare una mentalità e il modo di approcciarsi allo sport per i diversamente abili. Questa responsabilità si sente nel gruppo? Sì, abbastanza, anche perché questi europei li giochiamo in casa davanti al nostro pubblico e quindi siamo comunque invogliati a fare un ottimo risultato. Chiuderei questa conversazione proprio con il presidente Marson. Presidente, appuntamento che abbiamo detto importante per la visibilità del movimento, però quali sono i passi futuri da compiere per continuare a crescere? Ma sicuramente i passi futuri è pensare che siamo solo all'inizio e quindi continuare veramente con questa avventura e continuare veramente a tenere d'occhio i giovani e veramente fare il possibile per entrare nelle scuole, per entrare negli ospedali, dove veramente abbiamo possibilità di poter trovare i giocatori veramente avere un buon rapporto con loro, no? Che riusciamo veramente a farci conoscere. Sicuramente anche con voi questa chiacchierata sicuramente è fantastica e spero che qualcuno veramente magari sentendo abbia la possibilità di poter dire: guarda, c'è la possibilità di andare a vedere e poter tentare provare a diventare un giocatore di basket in Crozina, cimentarsi, provare. Poi chiaramente la nostra società chiaramente ha basket in Crozina, ma poi anche non nuoto, atletica, abbiamo calcio e anche basket per disabili con disabilità intellettiva e relazionale, quindi cioè, abbiamo un 130-140 ragazzi che fanno attività sportiva, quindi mi auguro veramente che tutti possano veramente conoscere tutte le società sportive che ci sono in Italia, che si danno da fare per promuovere chiaramente lo sport ai diversamente abili. E allora provateci, andate a Seveso a Cantù a vedere questo spettacolo, io già l'ho fatto in qualche occasione e sicuramente posso dirvi che non vi deluderà. Grazie ad Alfredo Marson, presidente della Briantea 84, a Marco Bregna, coach dell'Under 22 di basket in carrozzina italiana, e al capitano Lorenzo Molteni. L'augurio per tutti è buon basket. A bordo campo. Riciclaggio di soldi mediante sponsorizzazioni, partite truccate, scommesse clandestine, presidenti prestanome, il grande affare del mondo ultra, le scuole calcio. Così le cosche guardano al mondo del calcio come un nuovo grande affare. Libera, l'associazione Libera ha presentato il dossier in questi giorni Le mafie nel pallone, storie di criminalità e corruzione nel gioco più truccato al mondo. Cifre, fatti, nomi dei clan, episodi di intercettazioni inedite che fotografano l'infiltrazione delle mafie e la corruzione nel mondo del pallone. Di questo oggi parliamo a bordo campo con un ospite particolare, Daniele Poto, giornalista e curatore del dossier pubblicato proprio dall'associazione Libera. Benvenuto Daniele a bordo campo. Ebbene, dossier quanto mai voluminoso, no? Quello dedicato all'infiltrazione delle mafie nel pallone che hai curato direttamente, forse in modo anche insospettato e insospettabile, no? A testimoniare quanto lo sport più popolare del mondo sia appetito dalle cosche e dalle organizzazioni mafiose. Sì, è aumentato in progressione geometrica, ero partito da un'ipotesi di materiale molto più modesto, ma probabilmente si sono sommate le storie recenti di attualità che sono andate a comporre il volume con diciamo la preistoria del calcio truccato. Se pensate, vi ricordate, forse ci ricordiamo tutti, il calcio scommesse clamoroso degli anni 80, quando anche i giocatori della nazionale, quando anche i Paolo Rossi, Manfredonia, i Wilson uscirono ammanettati dagli stadi e coinvolti in uno scandalo senza precedenti. Forse quella è la data di partenza del calcio truccato. Purtroppo il calcio considerabile non sport ma gioco, quindi con tutte le conseguenze del caso. Ecco, qual è la situazione attuale? Mi ritornano nella memoria e nell'orecchio anche gli allarmi lanciati in questi mesi dal procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, che più volte ha sottolineato attenzione alle infiltrazioni delle cosche nel mondo del calcio italiano. La fotografia che emerge dal rapporto che hai curato per Libera coincide con l'allarme lanciato dai vertici della lotta alla mafia italiani? Beh, diciamo, alcune situazioni sono documentate ed emergenti, altre probabilmente verranno alla luce nei prossimi mesi. Se pensiamo al caso più clamoroso nel calcio a alto livello, sicuramente la situazione della Lazio, il tentativo di scalata di Chinaglia con i soldi dei casalesi, 21 milioni di euro messi a disposizione, parcheggiati e riciclati nelle banche ungheresi per scalzare Lotito dalla presidenza della Lazio. Quello è il fenomeno più macroscopico, ma poi esiste un tentativo di controllo endemico sul territorio, nelle piccole società della Calabria e della Sicilia, dove, pensate, diventare presidente di una squadra di calcio può voler dire tesserare dei giocatori, istradarli verso attività malavitose, controllare il territorio, procurarsi dei voti probabilmente di scambio con partiti collusi con la mafia locale, e quindi un'enorme operazione di grande e produttiva visibilità per la mafia, naturalmente finalizzata al reperimento di soldi, alla valorizzazione di soldi e spesso a traffici paralleli legati alla droga, al riciclaggio di denaro. Anche perché, come ricordavi, se balzano agli onori o ai disonori, meglio, delle cronache i casi più celebri come quello della Lazio che sottolineavi, la situazione è molto più complessa e molto più ramificata nel calcio minore, dove inevitabilmente controlli e anche contromisure sono più difficili da applicare, se non sbaglio. Certo, non è un calcio sotto i riflettori, e di più conta su una componente molto importante e sottovalutata, che è l'omertà degli stessi tifosi, perché in un paesino della Locrite o allo stesso Rosarno, che sono, non li cito a caso perché sono due società e due centri citati nel dossier, i tifosi sono manipolabili perché per quella loro squadra farebbero qualunque cosa e chiuderebbero qualunque occhio, anche se il presidente della squadra è stato raggiunto da un provvedimento di 416 e quindi di organizzazione di tipo mafioso. Purtroppo quel tifo ha questo controvalore terribile, che è anche chiudere occhio e anche omertà, insomma. Abbiamo ancora nella memoria, tra l'altro, Daniele, anche episodi altrettanto clamorosi di adesione in qualche modo alla filosofia mafiosa, no? Faccio riferimento a squadre come ai giocatori dell'Acragas, ad esempio, che nei mesi scorsi addirittura professarono la loro adesione, il loro supporto a un boss mafioso incarcerato nei giorni precedenti a una partita, o altre situazioni di questo tipo. Ecco, dal punto di vista psicologico, che legame si crea sul territorio tra queste squadre e questi personaggi legati alle cosche? Beh, è un legame quasi, vorrei dire, quasi di sangue. Pensiamo cosa vuol dire la definizione di cosca, di famiglia in Calabria, dove i pentiti di 'ndrangheta sono assolutamente un numero trascurabile rispetto ai pentiti di mafia, proprio per la coesione che c'è sul territorio, perché non so, io cito nel dossier, c'è una famiglia ai Pesce che legano il proprio nome a una società, e sono talmente tanti che quando arriva un'ispezione di polizia e gli avvisi di garanzia, i Pesci nella rete sono addirittura, credo, 14, voglio dire, è un legame fortissimo, e i Pesce e questi personaggi sono nelle società, ricoprono ruoli chiave nell'organigramma, presidente, dirigente, accompagnatore, quindi creando un tessuto connettivo mafioso difficilissimo da sradicare se non c'è qualcuno che denuncia, ma bisogna anche pensare cosa vuol dire vivere in un paesino della Locrite e denunciare, a che cosa ci si espone. Ah beh, è chiaro. L'altra sponda che mi viene in mente è quella del nuovo fenomeno delle scommesse, anche quelle legali, almeno in apparenza, e la sponda balcanica, no? Tutta l'influenza che arriva dalla pressione delle mafie dell'est balcanico, appunto. Da questo punto di vista, sei riuscito a scandagliare anche questo terreno, o è magari il prossimo capitolo? No, c'è un ampio capitolo internazionale, solo per dare un flash, magari insospettabile, questi campionati dei paesi dell'est, penso soprattutto al campionato macedone, a campionati che sono un pochino poco seguiti e quindi assai manipolabili, c'è l'influenza, c'è la longa manus addirittura della mafia cinese, degli allibratori cinesi che spostano i risultati delle partite. Non è un caso che a un certo punto il Pobeda, una squadra macedone, è stata esclusa dalle manifestazioni europee per 8 anni per aver truccato ripetutamente una serie di partite, che naturalmente il campionato macedone uno si può immaginare che non sia seguito, e quindi sono le scommesse più manipolabili, ma la globalizzazione della partita truccata purtroppo è arrivata dappertutto, anche in paesi insospettabili come la Finlandia, dove non ti aspetteresti questo tipo di fenomeno, ma se la squadra finlandese è comprata da un imprenditore cinese può succedere anche questo. Ah sì, nessuno si salva, così come non si è salvato il Potenza, no? Il caso a cui ha dedicato forse il capitolo più ampio di questo dossier. Esatto, perché per noi il Potenza è il caso limite, non è l'Inter, non è il Milan, quindi forse pochi sapranno del Potenza, ma per questo è il caso più interessante, perché il Potenza, una società che fino all'anno scorso parlava di Serie B, è precipitata agli inferi, è stata esclusa dal calcio professionistico oggi, farà fatica a iscriversi alla Serie D, e questo perché? Per la collusione del presidente postiglione con le mafie locali, con l'Andrangheta, un sistema a 360 gradi per cui postiglione utilizzava la squadra per i propri traffici, vinceva somme ingenti truccando le partite, escludeva prima di partite importanti giocatori determinanti per rendere più debole la propria squadra, utilizzava gli uomini dell'Andrangheta come security per la società, quindi veramente lo sfruttamento totale della squadra per i propri fini malavitosi. Quindi in casi del genere ci si accorge che la passione è veramente una parola senza senso, contano solamente i soldi, gli affari e le collusioni sul territorio con la 'Ndrangheta locale. Beh, Daniele Poto, veramente un ritratto da far venire i brividi, quello che hai disegnato in questo dossier curato per l'Associazione Libera, però ti chiediamo anche, restituiscici un po' di speranza, soprattutto quali possono essere, alla luce dell'esperienza che hai maturato attraverso questo studio, le contromisure e i vaccini per contrastare questi fenomeni e soprattutto questo legame tra il calcio e il malaffare. Io ne vedrei tre, diciamo due ideali, forse utopici, però naturalmente la buona volontà, la progettualità utopica ha un suo significato. Uno, ad esempio, è l'azionariato popolare, che ha cercato di vivere di vita propria per salvare il Potenza e non ha fatto in tempo. L'azionariato popolare è questa bella parola che purtroppo constatiamo funzionante ed efficace in paesi come la Spagna, in società come il Barcellona, ma in Italia ancora non riesce a trovare una propria applicazione. Per quanto riguarda l'ambito investigativo, sarebbe molto funzionale l'istituzione di una figura, diciamo così, di un collaboratore di giustizia sportivo, quindi diciamo i cosiddetti volgarmente pentiti che esistono nella giustizia penale ordinaria, applicati allo sport. Pensiamo a un postiglione, presidente del Potenza pentito, quante cose vere potrebbe dire per scoperchiare l'Andrangheta che lo ha messo a un certo punto in un angolo e l'ha costretto a perdere questo giocattolo che gli rendeva così tanto. Beh, Daniele Poto, grazie per lo studio che hai realizzato per l'Associazione Libera, grazie anche per questi suggerimenti, però prima di lasciarti mi viene da chiederti un'ultima curiosità. Hai studiato questo fenomeno del legame tra le cosche e il calcio italiano, hai visto quali sono le sue sponde all'estero, insomma è un quadro nazionale e internazionale, e allora, tirando le somme e chiuso questo capitolo, riesci ancora a essere tifoso di calcio? Perché squadra tifi? Se mi chiedi una domanda personale, la mia risposta sarà molto deludente. Io non tifo più per nessuna squadra di calcio. Dei mondiali di calcio ho visto solamente perché c'era una certa incertezza sul risultato Italia-Slovacchia, è l'unica partita, aggiungo anche la finale mondiale, le uniche due partite viste ai mondiali, ed ero tifoso della Roma fino a 3 anni fa, tifoso molto tiepido, però naturalmente un tifoso anche se vuoi intelligente che riesce a vedere la realtà, e quindi voglio dire, quando si apprende che la Sensi, che adesso ha appena finito di vendere la Roma, si attribuisce uno stipendio di 1,5 milioni di euro all'anno come amministratore delegato di una società che sta andando alla deriva e che è ostaggio delle banche, oppure la Roma che attaccava Moggi poi ci faceva gli affari insieme, o attaccava Galliani e ci faceva gli affari insieme, non puoi continuare a essere tifoso della Roma nella stessa maniera di prima. Beh, Daniele Poto, difficile darti torto, intanto grazie per il lavoro che hai fatto su questo argomento così scottante. Beh, l'augurio da parte di A Bordo Campo è quello di non perdere la lucidità nell'analizzare questi legami così difficili, ma magari anche di ritrovare un po' di passione per il pallone puro e semplice. Ti ringrazio, a voi. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Filippo Aureggi in regia. Vi ricordo che potete scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it e riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.